Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K da venerdì, venerdì, però venerdì che anticipa un sabato in cui saremo sempre, ma come? Saremo con voi, non alla radio, vedi, bisogna sempre spiegare delle cose complicate. Allora, tanto io mi domani Chiedo Asilo apre, anzi l'asilo apre al Salone del Libro di Torino alle 12 nello stand di Radio 24, però non ci sarà traccia di questo alla radio, quindi alle 12 domani a Radio 24 non ci saremo io e K. Invece a Torino dal vivo sì. Vabbè, ho spiegato abbastanza bene, secondo te? Ho capito qualcosa? Io mi sono lasciato prendere dal venerdì. Lascia perdere, è un venerdì diverso questo. Non è il venerdì che anticipa il sabato in cui tu te ne stai tutto il giorno a fare la catalessi volontaria sul letto. È un sabato in cui dovrai essere prestissimo su un treno diretto verso Torino, scendere a Lingotto, cercare una navetta per arrivare lì alla sede, ex sede della Fiat, perché in realtà la stazione dei treni non è così vicina, bisogna fare tipo 6 km. Cioè, ma quindi domani alle 10 dovrò essere. Alle 10 dovresti già essere operativo. Io direi a Torino. Sì, parti quindi di partire qua verso 7:30, 8. Ma tu sei pazzo. Ma è sabato. Ma oggi è venerdì. Intanto, altrove... Altrove dove? Cioè, altrove al venerdì. Ma no, al Lingotto, che incubo. Vabbè, comunque, questa didascalia ci introduce l'argomento. Ci introduce al solito finale, che cioè io me la prendo nel... L'altra volta è finita così. Sì, l'altra volta. Questo, il fumetto, dietro l'angolo, una didascalia ti può spostare da una parte o dall'altra. L'altra volta ti è andata male, dovevi fare Robin, ma non è detto che stavolta vada così, no? Non molto tempo dopo, in mezzo al mare. Ah, ti piace qua? Ah, ti piace il ristorante della mia nave? Questa è la mia nave. Capitano, bello! Si chiama nave Concordia. È bello, è bella, io la guido, io sono capitano, tu sta zitta che ti pago tutto, quindi devi stare zitta. Ora ti insegno una cosa, prima mangiamo. Prima stiamo qua al ristorante, mangiamo del pesce. Buono pesce, buono pesce, ti piace? È buono, è bello. È bello, no, è buono pesce, perché è bello, fa schifo, guarda con l'occhio, vedo l'occhio del pesce, fa schifo. Invece se mangi un pesce buono, e poi ci beviamo su del vino bello frizzante, perché fa bene col pesce. Sta brava tu. E dopo io ti insegno la manovra dell'inchino. Che te ride tu, l'inchino, hai capito che devi fare? Fare ginocchio, tutto di ginocchio. Brava! E mentre tu fai questo, io guido la nave con gli occhi chiusi. Poi, improvvisamente, la porta si chiuse con violenza. No! Cosa? La mano! Scusa! Scusa un cazzo! Due isolati più in là, nello spogliatoio maschile. Ma cos'è sta roba? Gli esercizi, no? Gli spogliatoio, ti scaldi sì, un po'. Vabbè. Sì, secondo me qui invece finisce cosa? Come l'altra volta. Cosa? E cioè che io me la becco nel... Ma dove? No, dove? Due isolati più in là, nello spogliatoio femminile. Sono tornato! È stato bellissimo! L'acqua era magnifica! Ho persino visto un pesce gatto capovolto! Judy! Judy! Ma dove sei, Judy? Judy! Judy! Cosa? No, la mano! No! Scusa! Scusa un cazzo! Poi un plotone di esecuzione. No, come un plotone di esecuzione? Te lo vedete, visto? Trago! No! È morto. Hai visto, K? Ci hanno fatti fuori. Ma ci hanno fatti fuori, ma è un fumetto, Drago. È come la radio, non esiste. Voglio dire, il realismo non c'è in radio, come non c'è nei fumetti. È tutto un sogno. Allora, noi dobbiamo parlare dei nostri fumetti. Basta di questi fumetti qui. Che noi dovremmo parlare del venerdì. No, noi dobbiamo parlare dei fumetti di Chiedo Asilo, che presentiamo in anteprima domani alla Salone del Libro. Prestissimo, all'alba. A mezzogiorno. È l'alba. Poi noi partiamo prima, però è a mezzogiorno. L'alba di sabato. Allora, per quelli che invece si ascoltano la radio, dobbiamo fare ascoltare il fumetto. Fumetto che domani faremo vedere a Torino. È secondo, questo è il numero 2, episodio numero 2. Ieri abbiamo fatto sentire episodio numero 1, questo è l'episodio numero 2. Intitolato? Intitolato Fumetti di Chiedo Asilo. Come lo intitoliamo? Non so. L'asino di Buridano? E ora, bambini, la merenda! Uè, Ioris. Ciao, Albè. Allora, che c'è oggi da mangiare? Beh, cosa vuoi che ci sia? Ah, non lo so, non mi dire ci stanno i finocchi cotti. Beh, certo, finocchi cotti o tapioca. Tapioca? Tapioca. La patata brasiliana. Ah, la patata brasiliana. Albè. No, non quello che pensi tu. La nostra tapioca è una roba che non sa di niente. Che magari è anche peggio dei finocchi cotti, eh. Ma scusa, ma fammi capire, quindi che devo fare? Devo scegliere tra i finocchi e la tapioca. E certo. Ma mica è così facile, avverti, che scelte mi fai fare? Vabbè, lo dici a me, fanno schifo tutte e due. Appunto. Poi tu devi scegliere, o uno o l'altro, perché qui la messa chiude. Poi fai la fine dell'asino di Buridano, eh. Chi? L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. L'asino di Buridano è una favola filosofica, sull'indecisione dell'animo umano. Ma quale umano? Mica era un asino. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. No, beh, non ci siamo, io non so decidere. Tra i finocchi cotti, la tapioca, cose, poi le mandate in confusione, non riesco a decidere. Vabbè, comunque tu devi scegliere, se no finisci come l'asino di Buridano. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Ma come muore di fame? Oh. Ma sì, perché era un asino indeciso, no? E non riusciva a decidere se mangiare la paglia o il fieno. Come te, con i finocchi cotti e la tapioca. Ma non facevo prima a mangiarsene tutte e due? Eh no, perché poi è rimasto lì come un pirla e non riusciva a decidere. E alla fine, anche l'asino di Buridano è morto. Allora, ti è piaciuto? No, guardi, comandante, proprio... È morto, è, appunto... è morto, e purtroppo quante morte ci sono? Non lo so, dovrebbe saperlo lei. Dovrebbe dirmelo lei, e va bene, non lo sa. Vabbè, allora... Quando abbiamo cominciato Chiedo Asilo, morto questo, morto l'altro, venga, morto, sono morte tutte. Mi spiace, ma io stavo bevendo il vino, perché il vino bianco esalta il sapore del pesce. Capito, però... Lo pesce, guarda, quando sta dentro un piatto, non puoi dire ti mangio dopo. O devi mangiare in quel momento lì. Lo so. Perché un pesce c'ha l'occhio. Ti guarda. L'occhio del pesce. Ti guarda e dice mangiami non si adesso. Può dire di no. Come poi, si fa? Un comandante di nave come fa a dire come di no? Si fa? Lo so, lo so. Vabbè, allora. Come con gli spaghetti allo scoglio. Lo scoglio lasciamo resta perdere sempre. Gli spaghetti. Sai che lo scoglio ma resta sempre. Ci credo. Allora. E questo è venerdì. Sì. Allora, scogli permettendo, domani, venerdì, ore 12. Il giorno da pesce. Sabato, domani, ore 12. Salone del Libro di Torino. K e Drago dal vivo con Chiedo Asilo. E vengo anch'io. E va bene, comandante, ci sarà anche lei. Ciò nonostante. Quindi. Poi. Ma.